detto guarda coordinatore qua ci vuole una scheda nuova, non è vero, non è vero, dice questo ho fatto, sì ho fatto così così così, mi ha mandato un altro elettricista, la stessa cosa, mi ha mandato un altro, peggio di peggio, alla fine ha comprato la scheda e funziona tutto bene, ma insomma non c'è su mobiliere, ha cambiato la scheda, non tutto bene, poco si è detto. Ci voleva una scheda nuova, perché era partita, capito? Mi bruciava il fusibile. Scappa, so che la scheda magari è ben progettata, questi invece hanno sbagliato il progetto, per quello di queste condizioni. Io non so quanti ce ne sono in giro che funzionano ancora, ma tu hai detto che ce n'era uno uguale che funzionava, così è? Sì, quello che c'è Manuele. Deve essere allora che non hanno magari mai alzato di potenza, anzi, forse qualcuno l'ha abbassato di potenza, perché tu lo sai questo apparecchio nasceva con 12 watt. Cioè, praticamente già togliendo fuori 5 watt siamo al limite dell'alimentazione. Però lui nasceva con 12 watt, uscita da M, capito? MFM faceva 12 watt. Perciò ti puoi immaginare, a volte di assorbire quei 2 ampere, ne assorbiva 6 ampere, 5, 6 ampere, così di picco in modulazione, quindi va, lo sfondi l'alimentatore, non ce la fa, crepi tutto. Hanno sottodimensionato un alimentatore praticamente che non andava bene quello che hanno messo, era molto superiore. Ma se l'avessero fatto a 5 watt, a posto di 2 ampere, 3 ampere, questo apparecchio ha funzionato bene, però ogni volta che dell'altro regolatore qua, qualche danno l'ha fatto, adesso l'ultima volta che c'è l'altro regolatore ha staccato il finale audio. Però io ho visto che tutti i finali non sono più originali, perciò ha fatto danno una volta così, una volta con la, capito? Faceva la tensione a 20 volt e rompeva qualcosa. Che culo che non si è rotto il PLL e che non si è rotto il frequenzimetro. Questa è fortuna, eh? Ecco. Vabbè, vedi tu cosa puoi fare, dai. Perché mi sta anche scordando questo apparato, eh? Mi dispiace perché a me non mi piace, Quello bello bello, non ne ho mai visto io così, è il primo che è vero, perché dimmi la verità, non sembra un HF, altro che baracchino, vero? Sembra proprio un HF, sembra bellissimo. È per quello che mi piace, perché è diverso da tutti. Quello purtroppo l'hanno costruito di fretta. Vabbè, mi stiamo a fruire gli apparati di Cardino, grazie a Dio, ma li hai contatti di Cardino gli apparati? No, non li ho contati giusti, perché ci sono anche quelli che ho dentro casa, quelli che ho in macchina, e c'è da perdere il conto. Mi sa che ti tocca passare una giornata a contarli, per sapere quanti ne hai. Riccardi? Cosa, Tonino? Quanti due, non me lo vedi? No, sono da collezione, io li devo vedere, se me ne manca una alla vista vado in saturazione la mia mente. Ma cosa dice tuo padre? Adesso tu hai detto ma sa che ne vuole acquistare uno? Si può fare, ragazzi. Secondo me tuo padre, non lo so, magari qualcuno lo può anche dare. Chiediglielo. Gli posso vendere a 200 euro il rosmetro che ho trovato nell'orto. E cosa c'ha per lancetta? Una zucchina? E fave. Fatto da serve il rosmetro, Tori. Ehi, questo è dolcito. Certo, stava qua al telefono, come li fa? Sono nell'orto. Ma pure il rosmetro. Ma da dove? L'orto era, se non ci credo. Aveva le zucchine, i cipioni, i pomodori. Sì, che a Sergio ha cantato, lui sperava che riuscisse una stazione HF dopo qualche anno. Riccardi, cosa mi convinci? Sì, perché mi ha detto che facendo traslochi da una parte all'altra, nelle scatole, eccetera, no? Quando sono le cose, qualche volta che è successo che magari si è avuto qualcosa, magari di sera non se ne è accorto, e pensa questo qua è finito dentro l'orto. Chissà quanti anni era lì. Sì, Riccardi, bisogna che per quel giorno ci conosciamo, così vedo tuo padre, se lo conosco, e mi faccio vedere un baracchino. Sì, è fra, Tonino, scusa, già ci conosciamo un giorno, vediamo. Comunque, forse cosa ne sai, nel trasloco anch'io la notte, fra 30 anni forse trovo un baracchino per terra, cosa ne sai? Sì, sì, se continuo a occupare a voi, avrei anche sotto il cuscino. Quasi quasi. Mi capisci, ma il fratello lo sai, in giro davanti alla TV a sempre a te. Mia sorella è scappata, non so dove sia, boh, non lo so. Lo sai, stava guardando cartoni animati quella lì, mamma mia. Guarda Fabio, che Riccardina pure si sta appassionando al baracchino. Io sono sicuro che prima o poi, quando è addormentato nel letto, prende il cuscino, schiaccia e fa break. Sonnambulo. Aspetta che c'è qualcuno che la notte cerca di mettere la portante. Aspetta su. Quanto sto salendo la corporazione, porca miseria. Sì, adesso è una cosa cattiva, fregate. Vai, metti l'antenna a fare. Vada, se fa riuscire stanotte a metterla, adesso ecco col filo qua, la pianto sul tetto. Fai di tutto. Perché la corporazione, per non fare male, uno chiede un po' basso e la corporazione lo copre. Che se vediamo un fastidio, guarda. Io non te ne ho piazzata, ragazzi. Io mica fai prima a metterti un dipolo e così spegni anche la roba. Secondo te come ti ho parlato adesso? Ma te la macchina ti hai parlato. No, volevo dire che stavo parlando con lo stendino. Comunque Antonio, lo sai una cosa? Da Alghero, con lo stendino di mamma, un giorno ho parlato in Spagna. La ricordi tu Alba? Quella ragazza che parlava, l'amica di Giovanna, te la ricordi? Sì, chiappa. La cosa siete grandi, te la ricordi? Che c'è, arrivavo in 4-5 sto casa sua, scendi, ti voglio conoscere. A quella avevo dato l'alimentatore dell'FT 7B, per esattezza. Con, cioè, l'involucro dell'alimentatore 7B. Poi, in pratica, il circuito era di un... mi aveva procurato coso Gianni Bravo 2 di Usilo, ci siamo andati assieme a Di Alghero all'aeroporto militare e ci avevo ritirato una toccasse di roba di elettronica già piazzata, tutto già completamente già pronto, tutto alimentato da 10-20 ampere, cose del genere, con trasformatore e tutto, e ci avevo pensato un ricordimento. Poi avevo regalato il baracchino, avevo fatto un dipolo a lei, nello stendino frigo, nel stenditoio che c'era a casa sua. Beh, lei arrivava tranquillamente a Capocaccia 9:10. È davvero, mi compro un altro stendino come quello che c'era a Ghero, lo metto in terrazzina e parlo bene con te. Sì, un giorno, io ti parlo di dopo 7-8 anni che lei ormai, vabbè, si era fidanzata, poi si è sposata con la gente, però, ma immacolata si era così. Il baracchino, oh, guarda, il baracchino diceva, non ce l'ho più perché mio fratello ci si è venduto tutto, mi ha detto. E tu, vabbè, pazienza, gli ho detto. Hai capito? Intanto avevo dato tutto io, alimentatore, cavo, R58, avevo costruito il dipolo io, tutto avevo dato io. E arrivavo al Ghero tranquillamente. Fattore completo avevo regalato. E arrivavo in qualsiasi posto. Antone. Ehi. Ma padre di Alba per caso, che poi è diventata la 50 di Poni Secondi? No, no, Alba proprio la figlia di quello, di quel signore che in pratica c'è il ciclo da lucciola, hai capito? Non è quell'Alba che era la sorella di cosa? Di Gianni San Giovanni, Giovanni San Giovanni, come cacchio si chiamava? No, è San Giovanni. E Tore San Giovanni, e Nino San Giovanni. Esatto. No, non è quella lì. Alba, questa è... abitava dietro casa mia. Via Fornalini, per esattezza. Figurati tu. E a primo piano. Ci potrebbe sapere, la figlia di... del padrone della lucciola, del ciclo della lucciola. Si chiama Immacolata come nome. Dietro casa mia, via Fornalini, tutta la Sabacchi. Appunto, abitava fatta vicino a casa mia in pratica. E non ce l'aveva lì, a primo piano. le ho trovato tutto io, cioè, figurati che c'avevo un paio di paraurti che era una cosa impressionante solo guardarli, hai capito? Ma che io ti parlo di tanti anni fa, sarà 20, una cosa del genere. Radio 5 se vale però il 9, se basso dovesse arrivare alle 25 in teoria. Teoria perfetta. Ciao, c'è Pietro Ruginito, ben sentito. Avanti Fabio. Ciao Pietro, ti senti? Ben sentito davvero, che sei sparito qualche giorno. Avanti di casino Pietro. Ok, grazie Fabio per il mic, saluto a Muros, saluto a Claudio e a Gianni, ciao a tutti, ciao a tutti e due e va bene. Comunque Claudio, è un delirio cercare di contattarti, immaginavo, è un delirio questa cosa di stare senza telefono e senza linea fissa. E senza baracchino, che non sentivo nemmeno così. Claudio, ci sei? Credo a voi diritto. Ehi Antonetti, con io non ti ho che ti porti appresso. Non zio? Sei sicuro che c'è un zio? Mi sembra strano a me. Ehi, c'è il rumore di sotto che... Oh, cosa fai? Ti porti appresso col guinzaglio? Ah, la ventola è arrangiata. Ecco qua. Minimo. C'è sempre la radio compressa, abbassa l'amplificazione. No, lo stacco là, era un po' da poco che non lo usavo. Eia, però tu, nel microfono, nel 1000, abbassi un po' l'amplificazione, che tanto c'è radio 7, torna radio 5 e già scendi più pulito, capito? Non è delle 1000, mi deve 1000 c'è uno nell'altro. Mi ho fatto la modifica l'altro giorno e... Capito. Mi sono a 6 watt e mezzo, quindi va bene. Non è che va di male. Che microfono è questo? Questo è Den 6. È amplificato. Se avete c'è il cicalino del coso, del pinguino, mi guardate. Del pinguino. Vabbè, cagli un po' di livello, va. Che sennò non è dinamica. Sono trovato il microfono adesso, sono andato a Giovanna, cosa avevo qua, boh. Giovanna, già lo sai, giù in casa sua c'è due baracchine, c'ha il 3009 e quello del 4000 sta usando. Quindi figurati, ma sono sto microfono io, e gli ho sceso anche questa delta. Non so l'altra, adesso vado a giocare di metterci il microfono normale. Solo vado là e mi piglio le mie più 4 se la tocca in quel posto. Ma cosa? Non c'avevi quelle F10, quelle F16, le... metti le F10 o le F16 che sia, che quelle andavano bene i microfoni. Non gli fa niente, gli tieni il volume a metà e esci pulito. Sai che questi microfoni giganteschi inizi a pompare il radio, pompi il microfono sul modulatore. Il modulatore pompa in amplificazione sui finali, i finali entrano nel lineare, ciao, cioè la radio sta compressa, non è la tua voce questa, no? F10 lo sa dov'è? No. Nell'FM500S che ha dato a Giuseppe. Sì, se speriamo non sfondi pure quello, grazie. Tranquillo, già funziona bene. E sì, mi sono con Tucchende. Ehi, già non ti va a parlare se mi ha guardato, guarda cosa gli sta a fare. E vabbè, dai, ma comunque funziona a casa sua. C'è un GBP4Tori, quindi... Ah vabbè, ma non è il microfono, è la scheda che c'è nell'apparato che gli hai messo. Esatto, sì, bravo. Signori, io vi lascio con esso, se è fatta una certa ora vado a prendere la carriola, e come dice sempre Tonino, e così mi ritiro nel mio alloggio. Ciao Antonello, ciao Fabio, ciao Gianni, Claudio e poi... vabbè, sta ruota, Tonino, se chi mi sto dimenticando, nessuno. Boh, comunque saluto anche all'orecchio di porco, a chi mette portante e a tutti quelli che rompono il 27. Ciao a tutti, a domani. Ciao Riccardi, buona carriolata. A me, me. Ciao ciao. Yeah, ciao Riccardino. Buon giro di carriola, buon corretti, buon tutto. Ti ringrazio anche a nome di chi mette la portante, che sta ascoltando. Avanti Antonello. Sì, ok, ciao Riccardo, ci sentiamo un po' una volta, buon tutto. Oh, se prendi la carriola, passala qua, intanto già siamo vicino. Sì, intanto mi devo fare solo tutta la salita per arrivare a casa tua e poi siamo tranquilli, poi tutti in discesa. Vabbè, allora che anche io sono in salita, al limite poi te lo fai in discesa. Non è quello il problema, poi. Per carità, perca. Poi il microfono e ricordi saluti a casa, ci sentiamo anche domani. Io ricordo l'occasione anch'io per salutare la città di Muros, salutare l'amico rapportante che sta ascoltando e anche Tonino, quasi poi saluto anche Antonello, cosa ne dici? Faccio QRT? Perché portante c'è? No, però l'amico che metteva la portante l'altro giorno sta ascoltando in questo momento, io lo so. Andiamo bene e quindi piace anche che metta portante, tanto non c'è problema, sono tutti dei nani. Adesso mi rimane. Sentivo. Cosa ha fatto di nuovo, Bocca? Niente, che faccio un'altra volta. Ragazzi, dai, faccio quello di più. Il saluto ci sentiamo domani, anche con te, Tony, magari. Così, e torniamo anche se va bene, ormai è tutto. È stato fino a lunedì, martedì, non riesco a prendere i tempi che servono, se puoi ce li ha, E niente, beh, ci sentiamo anche te, con te domani, dai. Così che torniamo su un paio di situazioni. Faccio pure buon divertimento, buon proseguo e buon tutto. Ok, ciao Fabio, se ci sentiamo domani, sarebbe bene, buon corretti. Avanti Antone. Yeah, ciao Fabio, ci sentiamo, buon corretti, buon tutto. A domani. 6-8, stai andando male. Adesso 6-7. L'aria è buona, però il segnale non sta uscendo. C'è qualcosa che non va. È come se ci avessi in corto. No, non sta saturando, però il problema è che si è trovato non te li sta dando. Il discorso è questo. Hai problemi, ma problemi di fronti. È come se il segnale non fosse funzionando, capito? No, non sta saturando, il discorso è che tu sei calato di segnale, cioè se c'è 104 dovresti arrivare a 9.20, ma non ci arrivi a 9.20, sei sempre con 7. Sì, al contrario, capito? Prima di 9 verso 6-7, il discorso è quello lì come segnale. Quindi controllati con il lineare, senz'altro c'è uno spezzone che è in corso. E se è uno spezzone, è lo spezzo. O un accordatore, un vate, ma quello che è, controllati di tutti. Sì, però voilà. Avanti tu lì. Io mi sto facendo uno spezzone, raga. Tutto mi sta cadendo per terra, vaffanculo, c'è poco posto, raga. Perché ce l'ho corto spezzone, raga? Ma tu è più lungo, un metro e venti, quello che è. Chiedo Tonino, ma la spezzone da 45 centimetri. Fatto 1,20 m. La vagnatura ti prendi il cavo, anzi mi gira, se devi scendere anche tu da Fusaro, scendiamo assieme, che mi compro un po' di cavo, mi compro. Voglio installare l'antenna a Giovanna nel terrazzino, dall'altra parte, siccome me ho recuperato l'antenna di baracchino. E la voglio mettere dalla tappata al posto della canola pesca, così almeno forse esce meglio. No, io non ci devo andare a Fusaro, c'ho tutto quanto qui. Allora ci vado, la metti io la mattina, così compro il cavo, compro. E sistemo un po'. Me la metto in camera in salone in una piazza baracchino. Perché il terrazzino va un po' male, capito? C'è la linea, c'è il terrazzino, non è che ci arriva qualche passata l'acqua, cazzo si incendia tutto. Ai, Antonello, porcaccione. Magari ti avresti sentito, cambio. Sì, tutto porcaccione. Aspetta, Santiago 7, non sta uscendo con il lineare. C'è lo spezzone in corto. Tu togli il rosmetto e fai attacco diretto, direttamente, la baracchina lineare. avanti l'amico con lecca lecca. E il paletto. Io lecco, tu lecchi, li lecca, non li chiamo più lecca, te si leccano. Mia meme. Si è entrato. E si è parlato, non viene sotto il rito, che è un casino, pigliano. Ciao, ciao, ciao, Tonino. Ciao. Mau, mau. Anche tu, brutto porcheccione. L'olio santo coffo di come. Ma io sono Giuseppe. No, Giuseppe non ne ha, ecco. Ma se lecca sempre. Al telefono quello. Ah, se no al telefono. Va a far quello, già mi hai capito. Al tablet. Quello no, è un ricchino. No. Ah, tu dici che sono ultimi. Oh yeah, buonasera. Ciao Caruccio, tu sei che mi cammina. Ah, è Cino. Ciao, come ciao. Ciao, sì. Ogni tanto ne ci va a chiedere una pizza. E che c'è? Ciao. E c'è un attimo, scusate. Controllo stazionale, dai. Fondo scala, no. Addirittura. Mi sto dando stazionale io a un chilometro. No, vabbè, io dal momento che l'ho ripristinata ho cercato di abbassarla il più possibile, però tengo sempre lo strumento, sai, un po' sotto controllo. Dai, vabbè, è quello che capita a tutti, io lo sai. Adesso vediamo di portare il cavo nuovo in camera, io questo qui, che c'è il salone. E c'ho la cameretta nuova mia, quindi c'è tutta la stazione completa. Me la faccio nuovo di nuovo, tutta lì, come prima. Solo non stare a casa un cavo da una parte, un cavo dall'altra, eccetera, eccetera. Fanculo. Adesso domani stacco il piede, me lo porto dall'altra parte, mi sollevo la discona come antenna, la metto un po' più giù, faccio due buchi, sempre se non piove, metto un paletto da 2 metri e sono a posto. Domani non credo che esce così, non credo che piova, perlomeno. Oggi c'era un po' di gradi, c'era, ma no, tu a mezzogiorno ha messo acqua, cioè, allucinante. Sì, ha messo pioggia domani. E adesso lo stavo guardando, Tony, a mezzogiorno ha messo acqua, vabbè. Si capisce più niente, tempo bello, pioggia, sole. Guarda, oggi ero, stavo facendo un lavoro via a Trentino, una giornata, ma non bella non di più, però c'era un po' di levantino, un po' mischiato era, non era proprio levante, però insomma, era vento preso di mezzogiorno e quindi entrava da nord. Ma oggi qua ha fatto bella giornata, poi di vento c'era sicuro sì, fai campagna. Non lo so. Infatti c'era il mare di fuori che era bellissimo, però il mare di dentro erano un po' di onde lunghe, ma già mi aveva lavorato bene, perché c'era caldo, non peraltro. E avanti ieri invece ha iniziato a piovere, ma forte, ha piovuto forte, ha durato credo una ventina di minuti, dopodiché una giornata grigia e poi si è pulita, diciamo, si è messo il sole dopo, credo dopo mangiato. Io mi sto completando una stazione, ma non sto facendo più lungo perché non ci arriva, ragazzi. Su QRM, in tutti i canali, bubù, adesso. Antonio, guarda che a chi serve un rotore, un G400 della Yaesu. Posso chiedere se serve qualcuno. Io se metto una cosa del genere mi si va a fare pure in gare, lo sai. Per quello che ho fatto fuori quella di YouTube, ci avevo fatto dei conti. Ah sì, l'avevo fatto a me quella lì, ma dalla 27 se non mi sbaglio. E poi io l'ho fatta a Lucca, se non mi sbaglio, sì. No, io ne ho una, però non mi interessa piazzarlo al momento, Troppo piccolo l'impianto. Sì, di quello di YouTube ce ne sono altre due, ce ne sono me. Uguale. Devo ricoprarla io. Quindi figurati. Ci vado a chiederla. A parte la roba che c'è rimasta, adesso è bu. Devo parlare con la padrona. Fammi sapere, va. Io ti faccio sapere, quello non c'è problema. Certo, ho fatto lo stesso sbaglio che ho fatto un'altra volta, no? Che è da baracchino, è venuto questo con un pacco di un marsupio per i soldi, chissà che cazzo li ha rubati, e poi si è incolato uno e l'altro, si è incolato a me e poi si è incolato anche l'altro, si è incolato. E cioè, fammi capire. Il baracchino in pratica l'avevo già preso io, l'alimentatore è apparato, 150 euro, era un 25 ampere delta G, più l'apparato recametrico, c'era solamente la riparazione, 50 euro e basta, non c'avevo da fare altro. E l'apparato funziona. E invece poi è intervenuto quel guasto di sì, non hai capito. E in pratica si è comprato quello che mi ha fatto a me cosa, mi ha fatto avere quell'apparecchio lì, hai capito? Mi ha telefonato, dice guarda la parola, vuole l'apparato, vuole, eccetera, eccetera. Aggiungo, esco, fa una cosa, sta che in culo l'apparecchio, poi ho girato il 140. E ho preso quello, ho detto vaffa un culo, tu l'apparecchio di cadere, infatti ho durato, quanto ho durato? 6 mesi, poi l'ha preso, evidentemente o gli hanno messo fuoco alla macchina, cosa cazzo ne so, a lui, e ce l'avevano venduto insieme ai cavi, perché avevano avuto casino, hai capito? Volevano fare il galasso e è rimasto incravattato, rimasto, hai capito? Di chi stai parlando? Di cosa? Di Franco Bianco, se non mi sbaglio. Esatto, sì, bravo. Sono andato anche a casa sua, ma per carità, lasciamo perdere, va. E io appunto per quello, ho capito. Quindi a un certo punto gli ho dato la pila di recuro, tu da parecchio il caso che ti hai incolato, ecco. Hai capito? A quello che me l'aveva dato a me gli ha dato 100 euro in più, hai capito? È venuto con un pacco di soldi, chissà a chi aveva pilato. Ha fatto il tutto per segarmi l'apparato dall'alimentatore. Poi è rimasto incurato lui, perché dopo un mese ha rifiutato la codatura automatica. Ho detto, vai, speriamo che si correpi l'apparecchio, così gli è successo. Cosa aveva? Un Icon, se non mi sbaglio. Mi sembra un Icon, già c'ho la fotografia nell'altro telefonino, quello vecchio. Sì, ho andato io e Luca Flipper a vederlo, ma per carità, ma è un randaggio, non è lo stesso la parola. Sì, già l'ho visto, già che è un randaggio, ma ho visto già fatto la fine di che anche lui. Non lo so, so che aveva una, o perlomeno stava aprendo un'attività, tipo una ditta di autotrasporti, una cosa del genere, non lo ricordo. Tonino! Sì, già l'ho conosciuto, a mio discapito, l'ho incontrato. Ma secondo sbaglio, cioè come si dice, la base non si inchiappetta una volta sola, a seconda non si inchiappetta più, adesso questa volta quando faccio le cose di nascosto, mi prendo la roba io, dopodiché me la tengo. Chiamami, quando hai qualcosa chiamami Antonio, ne parliamo. Sì, per come non c'è problema, già ci mettiamo d'accordo, capito? Andiamo assieme. Quello che si va te pigli tu, quello che si va te pigli io. E siamo a posto. Andare, che problema. Tonino! Ma chi c'è questo canale? Io sono entrato, non so neanche chi c'è. Io, Tonino e Riccardino ha chiuso. Tonino, evidentemente si è spostato un attimino. Va bene. Andare. Invece se c'è Gianni, ci si, sì, Gianni doppio room. Senza ombra di dubbio c'è Giulio, salutoni Giulio. Sì, a questo ora, no, credo. Ogni tanto già ci ascolta, ci fanno vedere che è buono così, e fa anche a lui. E allora, aspetta un attimino ancora. Ehi, conoscendo, sì? Ehi, come questa radio, Antonè, ti piace? Sì, è ultima, chiara ma male. Ma questo è un Lincoln, un Lincoln che ha il mic normale, un dinamico. Si sta scendo bene. Va bene. Oh, oh, oh. Non so neanche quante volte sta andando, Oh, non lo so. C'era anche il giovane K2, vediamo se ha sistemato tutto. K2 piccolino, ci sei, Junior. Ah, che c'è anche Claudio, chiodo arrugginito. Vediamo dove sta arrivando, aspetta. Ma sta parlando. Aspetta. Sì, sentivo con gli altri 5 adesso sei sceso, bro. Ma cosa andiamo a aver combinato con questi apparecchi? Ma lui vuole tenere conto, cioè, non è possibile, cazzo, buffo. Ma sta parlando, bro. Ehi, ciao, Claudio, ci sentiamo, stai bene, buon quinto, buon tutto. Stai scendo come la canotta, quella famosa. Strano, fa la cosa, metti un cacciavite tra più e meno e fai scaricare, magari c'hai problemi di coso, c'hai. Non lo so, magari ti è sceso qualche coso, elettrostatica ieri notte, non lo so, così almeno la scarichi. E poi controlli col tester. Onde elettrostatiche come la volta scorsa. Ciao Claudio, non ti ascolto, inutile che sei proprio Santiago 3, non riesco ad ascoltarti, comunque ti saluto. Niente, provo a fare la stessa cosa della volta scorsa, mettere in comunque servite, come ha detto Antonello, il più o il meno del cavo, provo a scaricare le onde elettrostatiche e poi faccio sapere, Ciao Claudio comunque. Ciao Claudio, controllati comunque, scarica con cacciavite e poi prova al limite, già siamo qua, ancora. E gli ohm sì, devi mettere il test in ohm, esatto. Sì, fai come ti ho detto io, mettici un cacciavite tra il polo positivo e quello negativo. Fai scaricare tutto intero, dopodiché proprio col come si chiama? Col tester. Avanti te. Guarda, io sinceramente a Claudio non lo ascolto per niente. L'ascolto te, i segnali io fidati se lo senti tu. Va bene. Antonè, prendi in considerazione questo segnale un attimino che faccio una prova. Guarda un attimino come sta arrivando questo e poi attacco un'altra radio. Prova. Guarda Antonè, cosa cambia? Questo dovrebbe essere appena più bassa, però. Più chiara e più bassa. Più bassa, è vero? Di tanto? Sì, non male. Vabbè, dai. Ciao, va bene anche questa. Questa è quella che mi aveva riparato Fabrizio, che è un Lincoln, però col microfono ancora non sono riuscito a fare le connessioni, porca miseria. Tu le sai le connessioni del Lincoln? Voglio attaccare un più 4. Devi fare un bypass, devi fare, per poter agganciare il microfono amplificato, se no non ce la fai, No, ce l'avevo io, avevo il cavetto, porca miseria, non riesco a trovarlo. Avevo il cavetto da Lincoln alle connessioni del Midland, quindi non facevo altro che attaccare quello lì e andava bene, solo che non me ne trovo più. Perché non me ne metto più io, la verità non me ne ricordo più neanche io, figurati tu. Ho capito. Caspita, avevo il B300 in accoppiata con questo. Me l'ho venduto, porca miseria. Ma te lo ricompri. Ma sai cos'è, Antonio? L'ho venduto perché questa radio non stava andando bene, andava sempre in saturazione e quindi ho detto cosa me lo tengo a fare, lo vendo. Adesso è con il fatto dell'apparato, ma già sto spingendo. Ascolta, fai una cosa, mettiti un coso, mi butto tutto in culo e se la bia in culo. Cosa metto? con BV131 ti piazzi? No, no, non ne voglio, non ne voglio collaborare, è proprio quello, il Galaxy 1000, no, no, non ne voglio collaborare, voglio transorizzati in maniera tale che sono piccoli e vanno bene uguale. Compagno, di quelli, un B300, un B550, la macchina. Ah, neanche il 550 mi va bene, non mi piace, già va bene così, dai. Quando sarà deciderò e vediamo cosa fare. Adesso ho il 747, non è che, ma non, no, me ne frega niente. Questo è normale con i fatti dell'apparato, eh. Ho capito, ho capito. Allora, così io mi faccio una bella passeggiata oggi. Vado a trovare Andrea Manicomio e gli chiedo quanto vuole di quello che c'ha lui. C'ha l'alimentatore, il Superstar 3009, c'ha il 550, usa va via, la Mantova, Nova Nuova, mi sembra l'M300, non mi ricordo la verità. È un coso, un altro, è il 540 T6, se non mi ricordo male. Ah, capo Andrea, già me lo ricordo. Vabbè, ma non sta più modulando però. No, non sta più modulando, ma io che mi faccio un giro a Ussi, neanche la cosa, a qualche CB che abita lì, perché mi ricordo che lui abita lì a Literai, vicino alle poste, devo sapere controllare in quale punto. Perché c'avevo il numero di telefono suo, poi l'avevo perso a fianco a me, se no l'avrei telefonato, me l'avrebbe data la roba, mi avrei preso al volo. Ehi, vabbè, fammi sapere che andiamo assieme magari qualche giorno. Sì, d'accordo, ma magari ripetiamo con la matto, ma niente di strada, ma intanto penso che sia oramai in pensione. Già è abbastanza grande, non è che ci voglia molto, ha lavorato da piccolino, quindi. Ma cosa, che aveva l'età mia, cosa? Avrà una cinquantina d'anni, dai. Del 63 lui è. Del 63? No, allora è più grande di me. Te lo sto dicendo, è del 63. No, me lo ricordo, vabbè, da ragazzo, quando eravamo ragazzini, quindi figurati. Niente, non mi ricordo, cioè, pensavo che era dell'età mia. No, no, bisogna chiedere a qualcuno lì a Ussi, che lui già lo conosce. Vabbè, io se ormai non ci bazzecco più da un sacco di anni, mi aveva telefonato una volta e quindi non mi lamento più. Mi aveva dato il numero del telefono, poi l'ho perso, avevo cambiato il telefono, la facula a me, se no l'avrei chiamato, mi sarei fatto l'attrezzatura sua, c'era tutto, LG213, la Mantova 5, nuova, non si ammante, ma come se di vita ci aveva, figurati, 550 e 548 secondo loro, non c'è più 4 toni, il 3009, uguale a quello che ho io, con la mascherina agentata e vado un sacco di là con l'apparecchio lì. Tutti lo vogliono uguale, così in pratica. Anche se non funziona, lo vogliono così. Sì, boh, vabbè, io ho cambiato generazione, perché anche io mi piaceva il flutto, invece poi niente, ho cambiato in qualcosa di più moderno che va meglio, secondo me, poi vediamo. Tonino, ci sei? Ma Tonino c'è sceso, ce l'hanno sceso. No, già era qua, poi è fallito, ha chiuso mi sembra. Quindi... l'ascensore a parte vintage, a voglia. Ma no, non mi interessano, i vintage non mi interessano, Antone. Ne ho uno, un Seat SSB 23 canali, che esce bene, però non mi piace, è bello così, perché è un muletto, è grande, pesante, c'è c'è proprio la radio, diciamo, in confronto ad altre radio, perché si sente che c'è il peso, tutto quanto, però non ho, mi piacciono più quelli moderni. Beh, ce lo credo, anche a me è sempre questo. Prima l'ho fissato con 440, 430, 140, 180. Alla fine ho detto, ma che cazzo me lo fa fare a un certo punto? E quindi ho questo apparato qua e ho fatto 4 in 1 e va a far culo. Ho visto la quotazione, non è come quegli apparati di 20 anni fa, capito? Questo è 22 anni fa, però la quotazione che ho visto è allucinante, non ho mai visto una cosa del genere. 1020 euro, 1060, hai capito? Chi l'aveva comprato prima di me l'aveva pagato 700, figurati tu. Sì, è bello, però mi ispiro in qualcosa di più grande, hai capito? Per quello che ha, è bello perché è piccolo, è compatto, però a me piacciono un pochino più voluminosi, ecco. Vabbè, quello sì, no, io di meno di 500 non ho, il discorso è quello. Me l'hanno chiesto un paio di persone, dice fammi sentire il video, fammi vedere l'audio, eccetera, eccetera. Chi lo voleva così, chi lo voleva così, ha detto, ascolta, fa la cosa. E tu devi venire a casa, sono prova. È inutile che io gli faccio vedere il video, cosa gli faccio vedere a fare. Sono prova a casa, c'è l'antenna, c'è tutto. Se mi piace bene, se no prendi i piedi, ci sono le scale e si innalza. E allora, oh yeah, a pregare ci va in chiesa. Appunto per quello, io se me lo vai così, se no io di meno di 5, cioè 4,50 non lo vendo, il discorso è questo. Quando voleva 4,50 dice vengo subito in contatto e te lo prendo, no? Gli ho detto, 500, quanto l'ho pagato io? E noi siamo amici come prima, gli ho detto. L'apparato è nuovo, c'è la scatola, c'è tutto, se no l'avevo usato manco 10 ore. Con l'apparato lì c'è la scatola, c'è lo scontino, c'è tutto, c'è la modifica addirittura che te la forniscono da parte, che la paghi da parte, c'è anche la modifica per poter installare in macchina, cosa vuoi più che ti do il culo? A un certo punto, se lo vuole così, se no me lo tengo io, a me non mi la fotti nulla. E allora, se va bene, Antonè. Va bene, guarda, io ho preso un coso, una HR 5005, diciamo la verità che secondo me va meglio del Plutto, ma perché nuova generazione, attenzione, anche se l'altro aveva l'analogico anziché il digitale, però vabbè, uno si accontenta. Sì, ma c'è un apparato come il Plutto, si chiama Sommer, come si chiama? E non stanno neanche dando molto come prezzo, l'ho visto l'altro giorno, ho capito. Ma è bello, è veramente bello, uguale. Questo non è mancato Sommer Camp. Sì, vabbè, ma anche questo già va, si spinge, si fa sentire, e poi vabbè. Parlando sinceramente, siamo quattro gatti, siamo per diventare due, fra un po' non ce ne sarà neanche uno. Sì, oramai, guarda, è notato che la gente sta uscendo, quindi a casa non ci rimane più a usare il baracchino, quindi adesso questi stanno scendendo, perché avevo notato immediatamente a chi ne voleva 500, qui 700, hai capito? Adesso stanno cominciando a scendere a 300, chi 250, hai capito? Quindi quando arriverà a 120 euro, cioè 50 euro, la gente che se lo compra. Ehi, vabbè, una certa. Che mi interessa più di tanto, non mi interessa più comprare il radio, va bene quelle che ho e niente, tanto ne hai tante, ne usi sempre una. Antonè. Ciao, Tony, avanti, dimmi tutto. Dimmi, come ti arriva adesso? Prova. 1, 2, 3, prova. Adesso sei attaccato, si alza. 28. Va bene, dai. Ehi, a voglia. Invece capo lui è sceso come la carota, è caduto al fumo. È entrato, ha attaccato Santiago 9, poi è sceso a 7, è arrivato là, come te la canotte, te la guarda. Prova Tony. Prova, 1, 2, 3, prova di protocollazione. 1, 2, 3. Aspetta che cambio radio, perché questa qua è Tirchia, questa è Santiago 9, sta arrivando qua, aspetta. Cazzo, ma è Tirchia veramente. Prova, prova qua. 1, 2, 3, prova di modulazione. Guarda un po'. Vabbè, qua sei un pochino di più, qua 9,20. Aspetta che provo un'altra. Guarda un po' adesso. Ecco, adesso ho staccato, come sono? Aspetta. Dai, allora così finisce 1, 2, 3, adesso attacco, guarda, 1, 2, 3, ecco, attaccato, 1, 2, 3. Fai da 9.10 a 9.22 quasi. Già è buono, dai. Dai via, lascia tocca. Va bene, va bene. Sono attaccato agli altri, vai. Sono attaccato agli altri, del nonno, anche tutti i nonni. Buonasera. Buona, vabbè, dai, no, io sono stoccato, adesso è distanza. Beh, Tonino, cava già. Narrami tutto. Bello, cazzo. Tino, Tino, vai lì, vai lì, ti guardi, vai, va bene, riesciamo. E come va? Niente, sì, è quello che vuoi fare. Ma no, stavo provando fra uno il presidente, poi cambiavo con il 525, poi con questo, ma sono un po' per farvi andare un pochino da questa radio, perché sennò si blocca. Capo, bisogna farle andare. E beh, Tonino, capo già. Narrami tutto, dai. Io ci metto un po' a posto la roba qua. Certo, fattore. Capo, a me. Io ho acceso tutto stasera. Ecco qua, là, ho messo tutto a posto. Che prima avevo dei problemi e non potevo modulare. Ma io ho preso l'avvitatore che l'ho comprato da poco, quello tedesco verde bello, dalla Lidl, ne ho comprato due. Troppo forte, che metteva 20 volts. Mi piace troppo. Ho dovuto rifare gli spezzoni perché era un casino praticamente. Non mi arrivava lo spezzone, domani cambio di nuovo tutta la stazione, faccio un casino domani. Tony, con le BV sei? Cosa? Sì, con il BV. Scappa? Già va bene, va bene. Uno tre uomini è piccolo. Già ho capito, già va bene, va bene. Guarda Franco, controlla questa modulazione un attimino. Guarda se va in saturazione così. 1, 2, 3, prove di modulazione. Guarda un po'. No, non la sento molto in saturazione. La sento bella, bella, forte, ma è chiara. Ha cambiato Tony per te? Guarda un pochino. Qua c'è sempre il fondo scala, la radio è ottima. Boh, vediamo Antonello, sì. Guarda un po'. Guarda, ti faccio questo passaggio, 1, 2, 3, prova di modulazione. Adesso lo abbasso un pochino, vedi un po', 1, 2, 3, prova. Uguale. Anche due picchi. Ora, ora. Questo è uno. Guarda adesso. Guarda dove dentro è l'altro, dove ci siete. È aumentato, ma è... si fa uno scala sempre. Poco a poco si è mosso l'ago, capito? Però la radio è ultima sempre. 25, 27, esatto. Quindi va bene. Andiamo. Ciao Tino, ciao Tonino. E non so me. Ti ascoltiamo le prossime, dai, per scusare. Vedo la nanna e ci sono. Siamo la nanna, ci sentiamo, stavi bene, controllati l'apparecchiatura, l'antenna. Perché? Cosa è successo? Così, sei basso. Lo so che sono basso, sto scendo con un baracchino con due bassi. Ah, ecco perché fa. Di solito è più forte. Sì, lo so Antonio, ma ce l'ho staccato quello, avevo dei problemi e non ho rischiato quella radio lì. E ho messo un baracchino, per vedere. E, infatti ancora stavo sperimentando. E adesso mi metto, domani me lo piace. Ci sentiamo, ciao Antone, ciao Pino e ciao anche a Cavasà, Tonino. Scusa Fra, come ti arrivo a te? Tonino, tu mi arrivi 9, modulati 9:10. Va bene, la radio è buona, quella mi interessa. Buonissima, chiara, bella. Ok, ti ringrazio. Ciao da nuovo, buon pomeriggio. Buon 144 domani. Ciao, ciao Tonino, ciao Tino e ancora Antonio. Va bene, ciao Fra, ciao. Fate sentire che ogni tanto ci fa piacere. A me non ascolti a me di segnare Tino. Ma guarda, io sto sfruttando con il 5005 e 6920 Antonio, quindi ti posso dire che va più che bene. 920 così attaccato, ma si è attaccato. E così invece 695. E io va bene, non c'è problema. Guarda anche io, va. Guarda questo qua, 1, 2, 3, questo è il primo passaggio. E questo è il secondo. Giusto per vedere un pochino il fatto della radio. Sì, copichi positivo a 9, poi con attacchi arrivi 9,25, quasi 9,28. Allora, sì, 7, allora fai sì, 7, 8, 9, 4 punti esce. Già pompa, già pompa, a voglia. Che zona siete? Ma io sono in Cutiaca Campagnolo, Tony, sono, come ti posso spiegare, diciamo un po' più avanti della croce, però sulla destra, dove dietro il fornitore, dai. Ah, ho capito più o meno, dai. Vabbè, io sono un po' in alto rispetto a te, comunque. Sono vicino a San Camillo proprio. Tu sei in alto, io sono in una valle, io sono proprio basso basso. Ecco perché cerco un aiutino ogni tanto, perché sennò non fa. Quindi, adesso devo fare lui il trasloco, il salvatore, ma parte. Navigatore all'altro, cazzo vita un'altra parte, ci c'è casino che. Già va bene, già va bene. Niente, avevo preso un staccato di ispezione da Tonino e facevo uno schifo, pietà, che poi quando ho tolto il filo che ha messo lui è rimasto lo stagno dentro, non riesce più, ho dovuto prendere il navigatore che ho comprato e con la punta al ferro piccolo piccolo ho cercato di forare lo stagno che si è incanalato dentro, un casino praticamente. Ma poco abbiamo preso dei salvatori lì da Tonino, quelli blu. Sembra che vanno bene, ma non costano neanche tanto, sono 10 euro, però salvano bene. No, io ho un salvatore filo continuo, stagno, bello. Ne ho tre salvatori. Uno più bello dell'altro, neanche paragone. Salvatore PL di Torino fa uno schifo, che. Beh, vabbè, anche io ho una frazione saldante, quella autoregolante, poi insomma, la posso regolare. Non ricordo come cacchio è, boh, aspetta che te lo dico, sino a 450 gradi. Io ho un potenziometro, chiaramente diminuisce, se non lo so guardare bene perché ce l'ho messo distante, sta raffreddando. Ma è che giustamente mi sono fatto qua. Lo spazio, il mobile che mi sono autocostruito, giustamente ho fatto anche il piano per lavorarci sopra, capito? Però non è che ci abbi tutto questo spazio dove sono seduto io. Ogni tanto mi separava un BL, una futa che andava a finire sotto il mobile. Che. No, il mio fa da 150 a 450. Sì, ma Tony, anche io avrei l'intenzione di prendere una scrivania più grande, perché effettivamente questa. Insomma, piccolina, sarà 1,20 m, però tra computer, tra portatile, tutta l'ambaradana che c'è sopra, effettivamente non è basta. Sto cercando di, boh, adesso vedo un po', se riesco a trovare una bella scrivania, me la cambio, trovo tutto quanto, faccio sia la fazione che il PC, diciamo. Io mi sono fatto mobile, pensato così, su carta. Disegnato, commassato la bricome con prematteriale, ho tutta l'attrezzatura, tutta. E me lo sono autocostruito, ho tagliato misura e fatto uno sportello, ripiani e poi un cassettino dove cui mi appoggio per fare certi lavori. Però mi sa che taglio un pezzo e faccio un altro ripiano più grande, perché la roba sta aumentando qua, non ci sta più niente. D'accordo, anche perché molte volte devi salutare qualche cosina e ti serve spazio e non ne hai. Io molte volte per fare qualche lavoretto così leggero, nel senso che qualche anche fisciarete, qualche PL, per la quale devo sempre togliere il portatile, perché ho un computer un fisso e poi anche il portatile piazzato, quindi però è sul piano del lavoro, capito? Quindi mi dà fastidio sinceramente. E io dovevo uscire oggi a comprarmi una ciabatta 12 posti, 10-12 posti, quella che sono mi basta, ma non sono uscito, me ne sono fregato, me ne sono dimenticato. E quindi devo staccare qua, staccare da spine, contro spine, attaccare salvatore, è un casino, domani esco e me la compro. Avanti Antonio. Io aspetta che stiamo dando un messaggio, ci si presenta la baracchina, tanto è su Facebook, avvaluggiamo. Sì, comunque io l'ho fatto in base dove sono io, diciamo questo mobile, sono troppo contento, spessore da 2,5 cm, ma quando l'ho sollevato ho detto cos'è, piombo questa cosa, ma veramente pesante, mastodontico, bello, e ci ho messo le ruote sotto, avrei voluto alzare il piso per impulsarlo. Nessuno sa cosa ha fatto l'Italia. No, io non ho guardato neanche il partito. Vabbè. Adesso per vedere, perché sai, sono entrati da poco, quindi volevo vedere come stava andando. È proprio quello, no? Tutta, diciamo, quelle poche ore qua buttato, nel senso spostare quella, spostare quell'altro, eccetera, ho fatto un casino per niente. Se invece io già mi spostavo la roba come era prima, adesso faccio una cosa. Domani mattina, nuova chiacchieracco, mi sposto, tolgo tutto fuori, riseleziono tutto quanto come si deve, e così, però mettendo anche la ciabatta nuova, se no sono tutte cappa. Chi è che vuole entrare? Va bene. Avanti, chi è? Ho portante. Vabbè. Io voglio quanto la portante, poco mi interessa. Ma mi disturbava? Ma ragazzi, sei un po' buco, sei quasi come uno scala. Ok. Io sto sempre comprando poi tipo, non so più, mi mangio un altro mobile, non più un'altra parete, mi prendo, sposto il letto. No, vabbè, io comprando, anzi, sto vendendo alcune cose che sinceramente non ho, era un po' che non utilizzavo, quindi ho fatto male vendere un B300 che avevo, perché ho voluto accoppiare con questo Lincoln, che effettivamente ora che insomma che va bene potevo anche tenerlo, però ormai avevo già dato l'ok, quindi non faceva più a tornare indietro. E quindi cos'è che stai dando più o meno? No, vabbè, sto dando un altro apparato, Midram 48 modificato, con cofane nuovi, la cover nuova, e pomelli nuovi, tutti cambiati, diciamo che ha dagli 8 ai 10 watt modulati, 120 canali, niente di particolare, la sua scatola originale con libro di istruzioni, e più ha un CTE accoppiato per la modulazione, diciamo. Ma è stazione fissa? No, è una stazione fissa. Lo puoi mettere anche stazione fissa. Io sinceramente lo sconsiglio perché esce molto bene del radio, però prende colpi. Capito? No, io non lo so, io colpi non ne prendo. No, ma come dimensione, quello è un veicolare oppure è mastodontico tipo stazione fissa? No, Tony, il Midland alla 48 è veicolare, è un baracchino veicolare come potrebbe essere l'Intech FM500S, quella che deve salire, un Lincoln, un President,